Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ancora ben trovati con Mirko Cavallin, ancora ben trovato al presidente dell'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, l'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Siamo nel pieno dell'estate, parliamo anche oggi di vacanze, in questo caso di una disavventura che è capitato a chi aveva in mano un cofanetto Smartbox, più di qualcuno li conoscerà, si trovano anche in vendita nei negozi, un cofanetto che ti consente, appunto, di solito viene usato come regalo di passare una notte in un albergo, in una struttura ricettiva. Qui invece c'è qualcosa che non è funzionato a dovere, vero Carlo? Sì, Mirko, innanzitutto colgo l'occasione sempre per ricordare che anche questo è una di quelle disavventure che sono capitate al nostro sportello Vacanze Informata, che ormai sta lavorando a pieno regime ed è aperto tutta l'estate e non va certamente in vacanza, e anche per emergenze chiunque può lasciare dei messaggi e verrà ricontattato se magari capitano di sabato o domenica. E a questo dobbiamo raccontare proprio questa disavventura, partendo proprio da quello che è uno smart box, che magari alcuni non sanno ma che tanti sicuramente sì, che sono quei pacchetti che uno può acquistare, come hai detto te, in qualsiasi negozio, anche nelle cartolibrerie, dove ognuno decide quelli che sono dei weekend o due o tre notti, due o tre giorni, non so, romantici o città d'arte in qualsiasi parte d'Italia ma anche d'Europa. E in questo caso la vicenda vede come protagonista un mestrino che ha comprato questo pacchetto, questo smart box, e in sede di prenotazione del weekend si è trovato a dover essere dirottato da una parte rispetto a quanto doveva invece andare prescritto nel cofanetto. Ecco, spieghiamo che all'interno del cofanetto c'è un catalogo che poi è consultabile anche online, dove ciascuno, appunto, per l'importo corrispondente che ha pagato, che gli è stato regalato, può scegliere una destinazione. Un codice appunto viene poi inviato via mail alla struttura alberghiera, eventualmente uno può aggiungere, pagandola una seconda, una terza notte, quello che preferisce, e poi appunto si arriva lì tranquillamente con il proprio codice Smartbox. Qui invece era da tutt'altra parte. Sì, qui praticamente è capitato, come hai detto tu, che il pacchetto prevedeva un weekend in Sicilia. La persona, nel momento della prenotazione del viaggio, è entrato nell'area di accesso internet dedicata, ha cominciato a inserire i suoi dati. Quando alla fine ha premuto invio, che tutto era stato mai confermato, ha ricevuto conferma che il weekend specifico era riferito a una località in Sardegna. Certamente la persona, non dovendo andare in quel luogo là, si è rivolto subito all'Adico, perché ha dimostrato chiaramente che la destinazione doveva essere in Sicilia anziché in Sardegna, e pertanto subito i nostri uffici hanno diffidato la società, intimando subito la restituzione delle cifre. Però in questo caso vogliamo dire come magari certe situazioni anche semplici, come può sembrare un weekend, può creare anche dei disagi, soprattutto perché, come nel caso del signore, essendo che aveva ricevuto un regalo e quindi non era in grado di poter esibire uno scontrino o una prova di pagamento, ha complicato un po' la vicenda, a tal punto che ha dovuto andare per forza da chi gliel'ha regalato a farsi dare la prova di acquisto. Però certamente questa vicenda rientra in quelle casistiche di prenotazioni tramite internet, come possono essere anche tanti siti, pensiamo a Trivago, TripAdvisor, Booking e quant'altro, come anche Groupon e via dicendo. E quando si parla di formule di acquisto oppure di acquisti tramite internet, ecco, ci vuole sempre un po' di riguardo e di prudenza. Si è trovato appunto ad avere la prenotazione in un'altra località, ma il servizio clienti, il call center? Il servizio clienti in questo caso aveva famigerato 199, che alla fine, con tutta l'intenzione di tenerlo sempre in linea il più possibile, spennare gli altri soldi e non risolvere il problema, certamente non l'ha aiutato a districarsi in questa situazione. Una situazione che alla fine l'ha indotto a rivolgersi a noi, e malgrado la vicenda può sembrare anche di importo esiguo, i nostri uffici comunque si sono messi subito all'opera, però ecco, questo qua voleva essere anche un po' un'occasione per ricordare alle persone che, insomma, inseguire le offerte low cost sempre più espongono delle persone a rischi di incappare in queste disavventure. Ricordiamo che quando si parla di disavventure che capitano durante i viaggi è importante raccogliere materiale, fotografare, avere prove, testimonianze, soprattutto il consiglio è quello di scaricarsi le condizioni contrattuali, verificare eventuale assicurazione, fare attenti ai servizi aggiuntivi che possono venire richiesti. In molti casi persone che hanno acquistato tramite internet e pagato poco si sono lamentati ai nostri uffici che sono stati trattati da clienti di serie B rispetto ad alcuni che invece avevano pagato cifra piena e avevano un trattamento diverso. In questo caso si tratta di un regalo, quindi la persona in questione non aveva speso direttamente del suo, come dicevi, non aveva ovviamente nemmeno lo scontrino, dato che questo cofanetto gli è stato regalato. Allora, quale forma di risarcimento è possibile? Allora, innanzitutto, per poter procedere anche questa forma di risarcimento bisogna sempre calcolare un po' l'unicità del viaggio e il valore dello stesso, perché ricordiamo che da qualche anno non c'è solamente il danno patrimoniale che si è diritto quando ci si incappa in queste formule di disservizio, ma ci deve essere anche quel danno morale che viene determinato un po' dall'unicità della vacanza. Pensiamo a chi magari gli viene rovinato un viaggio di nozze, e il viaggio di nozze capita una volta in tutta la propria vita, come magari chi ha aspettato 40 anni per andare in pensione e quei soldi della liquidazione, non so, se ha organizzato un viaggio da mille e una notte. Quindi l'unicità del viaggio può determinare anche le formule di rimborso rispetto a quello che poi sono anche il valore della vacanza in sé. In questo caso, chiaramente, parlando di un cofanetto, non si parlano di particolari cifre, ma certamente il valore del viaggio e i disagi che la persona può aver ricevuto al momento della partenza si può valutare e quantificare in separata sede. E ovviamente l'Adico è sempre a disposizione, lo sportello Vacanza Informata che trovate appunto nella sede di Via Volturno a Mestre e anche online www.associazionedifesaconsumatori.it. Grazie Carlo, allora la settimana prossima altri due argomenti da sviluppare insieme a voi. Buona giornata. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.